Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Sabato prossimo, 19 novembre, si apre la settimana europea per la riduzione dei rifiuti. In occasione di questo appuntamento, attraverso una campagna di sensibilizzazione fatta anche di azioni concrete, alcune associazioni si rivolgono alla grande distribuzione per eliminare il più possibile involucri e imballi nella spesa di tutti i giorni. Vedremo come questo si può riflettere anche nelle nostre abitudini. Appassionati di pubblicità, preparatevi, restate con noi perché ai più veloci offriremo la possibilità di andare ad un appuntamento che è ormai diventato un cult, la notte dei publivori. Focus sui trend dedicato infine al western style, quando indiani e cowboy tornano a fare tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. Un altro marchio del Made in Italy vola in Francia. Brioni, brand di alta sartoria, celebre per aver vestito capi di Stato e attori, fra i quali vari James Bond, è stato rilevato dal gruppo PPR di François Pinault, colosso francese del lusso già proprietario di Gucci, Sergio Rossi e Bottega Veneta. Costo dell'operazione, 350 milioni di euro. La crisi allunga i tempi della spesa. Secondo una ricerca Coldiretti SVG, il portafoglio leggero taglia la fretta e per un italiano su due dilata il tempo trascorso tra gli scaffali dei supermercati a caccia delle offerte migliori. Si terrà domani a Milano la seconda edizione di Bags for Africa, l'asta benefica di Coopi che coinvolge 35 tra le più importanti firme della moda, tra cui Gucci, Tod's, Alberta Ferretti, Alexander McQueen, Etro, Jimmy Choo, Missoni. Ogni Maison ha donato una borsa, creata per l'evento o personalizzata, che verrà battuta all'asta. Tutte le informazioni sul sito dell'organizzazione umanitaria coopi.org. Topolino si rafforza su YouTube. Walt Disney e il popolare sito di condivisione di video si alleano per creare serie video originali distribuite da Disney.com e YouTube. I nuovi programmi saranno disponibili dall'inizio del 2012. Mentre le vendite di generi alimentari nei paesi ricchi stagnano, quelle di cibo per animali sono in continua crescita. Euromonitor prevede una crescita del 6% nelle vendite annuali di cibo per cani entro il 2016, rispetto al 5,3% dei prodotti alimentari. La borsa della spesa. Vediamo il problema più realisticamente. La gioventù va considerata per quella che è. Ma caro Renato, quello che dici non significa proprio un bel niente. Benedetti figlioli, la vita è complicata a tutte le età. Questo è vero. Sei d'accordo anche Claudia? Io sono del parere che i giovani vanno visti nella loro totalità. In casa vostra non vi comportereste mai così, vero? E allora perché quando andate nei prati o nei boschi vi comportate così? Ma i boschi e i prati sono casa vostra, lo capite o no? Il verde è tuo, difendilo. Vi ricordate questo spot e questo claim? Era il 1972. Questa campagna di pubblicità Progresso fu la prima campagna sociale in difesa dell'ambiente. Eravamo agli albori della sensibilizzazione civica per la salvaguardia dell'ambiente. Il tono intimidatorio lo testimonia. Da allora è stata fatta molta strada, ma l'emergenza ambientale, lo sappiamo tutti, resta. E non riguarda più solo le nostre abitudini di vita, ma anche di consumo. Dal punto di vista delle aziende e dei consumatori. A questa filosofia si ispira la campagna promossa da Porta la Sporta, Italia Nostra e Adiconsum in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, che si terrà dal 19 al 27 novembre prossimi. Un vero e proprio appello alla grande distribuzione che con le iniziative Meno Plastica per Tutti e Mettila in Rete vuole contribuire alla riduzione degli imballaggi e degli involucri usa e getta. Un appello in 7 mosse che ci spiega Silvia Ricci, referente di Porta la Sporta per l'Associazione dei Comuni Virtuosi. Tra le 7 azioni, ad esempio, c'è quella di eliminare l'utilizzo dei sacchetti monouso in plastica del reparto ortofrutta, richiedendo ai gruppi di mettere a disposizione delle soluzioni riutilizzabili, così come abbiamo trovato noi un retino che si presta per questo tipo di acquisti. Abbiamo avuto dei dati che sono abbastanza raccapriccianti: grandi ipermercati arrivano a consumare in un anno ben 1.500.000 di questi sacchettini, che poi finiscono immediatamente nell'immondizia. Un'altra importante azione è quella di utilizzare spazzolini con testine intercambiabili invece degli spazzolini uso e getta. Poi altre possibilità per la grande distribuzione sono quelle di ridurre l'iperimballaggio che spesso si trova nei prodotti di gastronomia. Ad esempio, i formaggi, che potrebbero essere confezionati in una semplice pellicola, spesso hanno l'aggiunta di un vassoietto che finisce anche quello immediatamente nella spazzatura, e dove c'è la raccolta differenziata a riciclo, fortunatamente. Un'altra possibilità è quella di evitare i doppi imballaggi, come ad esempio per i dentifrici c'è la scatolina in carta e l'imballo in plastica. Poi ci sono ad esempio delle confezioni come quelle di alcune marche di caffè, due confezioni con un sovraimballaggio, e questo acquisto è più conveniente rispetto ad acquistare le due soluzioni. E questo dà anche un messaggio poco educativo, nel senso che le persone sono portate a pensare che l'imballaggio non abbia un suo peso ambientale, come invece nella realtà ha. Poi altre possibilità sono queste, non tanto di riduzione del rifiuto quanto di aumento della riciclabilità degli imballaggi, e quella di sostituire le confezioni ad esempio di biscotti, che sono tutte in poliaccoppiato, quindi non sono riciclabili e vanno nell'indifferenziato, con un imballaggio che sia monomateriale, quindi in plastica e totalmente riciclabile. Alcune aziende hanno già cominciato con dei tentativi timidi, ma bisogna che questa possibilità venga estesa il più possibile. Le sperimentazioni di Mettila in Rete, il retino riutilizzabile per la frutta e la verdura, sono già partite in qualche ipermercato, come quello del centro commerciale Cospea di Terni. Ci racconta come sta andando Serenella Bartolomei, dell'associazione Ecologic Point. Siamo partite per il 27 di ottobre, abbiamo per 3 giorni regalato circa 2.000 retini in cotone riutilizzabili. Abbiamo poi dopo, la settimana successiva, dato l'informativa lì al punto ortofrutta dell'Iper, una settimana di informazioni e quindi anche di presentazione della bilancia comunque sia dedicata, visto che appunto è necessaria la presenza di una bilancia con una tara diversa ovviamente dal sacchino di plastica. Abbiamo notato comunque in quella settimana che all'incirca un 10% praticamente di persone che passavano appunto all'ortofrutta hanno riportato poi i retini in cotone. Alcune persone, vedendoci, hanno detto: sì, porca, l'abbiamo scordati a casa, però comunque la prossima volta li riportiamo. Quindi vediamo, comunque c'è una risposta abbastanza positiva. In questa settimana poi noi torneremo di nuovo alla carica, con la speranza ovviamente di partire da qui, ma poi di espanderci poi per tutti gli altri centri commerciali. Cinquecento spot provenienti da tutto il mondo, da vedere tutti in una notte. Per gli appassionati è un appuntamento fisso da anni. Stiamo parlando della notte dei publivori. Gli aficionados ne avranno già riconosciuto la sigla. La tradizionale maratona di spot è giunta quest'anno alla sua 31ª edizione. Buoni e cattivi, il tema di quest'anno, dalla pubblicità buonista agli spot in cui a vincere sono i cattivi. Anche quest'anno Radio 24 è la radio ufficiale dell'evento. Per la serata, anzi la notte, che si terrà tra venerdì 18 e sabato 19 novembre dalle 21.30 al Teatro degli Arcimboldi di Milano, Essere Avere vi regala 4 biglietti, 2 ad ascoltatore, i primi 2 che manderanno una mail al nostro indirizzo essereavere@radio24.it. Essere e Avere. Non potevamo che iniziare con la celebre colonna sonora del Buono, il Brutto e il Cattivo di Sergio Leone, colonna sonora firmata Ennio Morricone. Il focus sui trend di questa settimana è tutto dedicato al western style. Accanto a me, come sempre, la nostra esperta Patrizia Martello, docente di Sociologia dei Consumi e Analisi delle Tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Buongiorno a tutti, grazie. L'epopea western sta tornando di gran moda, gli stilisti riempiono le loro collezioni di abiti e accessori pieni di frange, piume e grafismi ispirati alle tribù indiane, da Hermès a Etro, passando per Gucci e Chanel, solo per citarne alcuni. Stessa cosa fa il design con i complementi d'arredo, anche in stile Tex-Mex, e il cinema e le serie TV tornano a raccontare storie di indiani e cowboy. Patrizia. Sì, storie di indiani e cowboy che hanno invaso, soprattutto in termini di stile, il mondo moda. Abiti, accessori e gioielli ispirati alle tribù dei nativi nordamericani, Sioux, Apache, Navajo. Per esempio, da Colette si trovano le bellissime creazioni dei designer Shannon Davenport e Julia Wilson, ciondoli, gioielli che citano elementi e materiali come il turchese dell'arte degli indiani d'America cosiddetti. Piume protagoniste, quindi collane piumate per chanel.com il sito, orecchini con piume colorate anche per Zara, cinture in pelle intrecciate con immancabili piume alle estremità anche per Dondap, ma anche Hermès ha creato Cosmogoni Apache, uno scialle in seta e cashmere dipinto dall'artista Antoine Zapoff, ponci colorati anche per Chloé con frange di lana per Replay e per i cappotti doppio petto di Esprit. Ispirazioni specificamente Navajo per la campagna stampa di Gucci, stivaletti di pelle frangiati con ricami nativi americani anche per Camper, noto marchio spagnolo, e poi ancora borse, shopper e bisacce a tracolla, cartelle da Fendi a Will a Jimmy Choo, con decorazioni, motivi grafici, inserti e code di procione da indiani d'America o da vintage, comunque old America. Dettagli western anche per l'uomo simbolo della moda americana, quella raffinata ed elegante. Parliamo di Ralph Lauren, che continua a uscire in passerella in jeans e camperos. Li aveva anche nel weekend di festeggiamenti delle nozze del figlio David in Colorado, dove è stato organizzato nel suo ranch, che è grande come la Liguria, pare, lo scorso settembre, con tanto di rodeo e in perfetto stile cowboy, quindi con dress code black tie, ma rigorosamente con tocco western. Molto interessante, siamo sempre nel mondo moda, da un punto di vista anche culturale, la seconda collezione di Agi and Sam, duo di giovanissimi stilisti emergenti londinesi. L'hanno intitolata The Native American Colonization of European States, presentata a Londra con un'installazione artistica a tema. L'idea, ironica e colta, è questo rovesciamento storico e antropologico, appunto, i nativi americani che hanno conquistato l'Europa, ed ecco che la moda maschile potrebbe essere come l'hanno immaginata loro. Lo styling è creativo ma non estremo, è molto concettuale, la collezione è provocatoria, ma questo non rende i capi invendibili o immettibili. Anche la collezione primavera-estate 2012 di Balmain, disegnata dal nuovo designer francese Olivier Rousteing, mescola stilemi da far west con quelli del lusso come oro, pelle nera, ricami e fibbie. E il western sta tornando d'attualità anche al cinema. Dopo i fratelli Coen con il remake del Grinta, anche Tarantino, grande fan dei cosiddetti spaghetti western, ha annunciato il remake di Django, film del 66 di Sergio Corbucci. Altro annuncio, altro remake per Il Cavaliere Solitario con Johnny Depp, mentre Harrison Ford e Daniel Craig sono i protagonisti di Cowboys and Aliens, pellicola tratta da una fortunata graphic novel, frutto della contaminazione tra i generi western e fantascienza. Non è il tuo giorno fortunato, straniero. Girati e cammina. Ho detto girati e cammina. Ti conosco? Non ti ricordi niente. Jake Lonergan, ti consegnerò allo sceriffo federale. Capo, Lonergan è in città. Voglio quell'uomo. Dammelo subito o me lo prenderò io. Sono demoni. Perché lo chiedi a me? Patrizia, dal grande schermo alle nostre case, anche il design è pieno di oggetti ispirati a queste storie. Sì, gusto e oggetti, diciamo, di matrice western e addomesticati, per così dire, entrano nelle nostre case. Ci sono i tipi, le tende coniche, quelle tipiche abitazioni dei nativi. Per esempio, Harrison e Clarkson, duo di designer di Amsterdam, hanno realizzato una linea, appunto, di tipi in cotone da interni, serigrafati a mano con motivi grafici o con nomi o immagini personalizzate per le stanze dei bambini. Sono acquistabili sul loro sito, che è Muslim Home, ma anche su Etsy.com, per le battaglie cowboy contro indiani che si facevano da piccoli nelle stanze. Altro oggetto wild che dalle praterie del selvaggio West entra in casa, l'appendiabiti armadio fatto con un lazzo. La parte di corda arrotolata a terra fa da base, c'è uno stelo verticale di corde acciaio rigido e la parte rotonda tipo aureola è quella a cui appendere le grucce con gli abiti. I creativi sono Linke e Herman. E ancora dello stesso collettivo, tavolo e sedie tipiche da saloon, quelli che abbiamo visto in tutti i film western, ma di gomma, per poter ricreare di nuovo a piacere e all'infinito le altrettanto tipiche risse con sfascio di locali e di zigomi, che in questo caso sono salvi. Si rimette tutto a posto e si ricomincia. La linea si chiama Hit It, colpisci. Anche il mondo dei trasporti ha cercato ispirazione nel mondo western. I sedili degli aerei a forma di sella, e questa è l'innovazione presentata da Avio Interiors Group alla fiera Aircraft Interiors Expo che si è recentemente tenuta in America. Si viaggerebbe nel caso, ma pare che numerose compagnie aeree si siano dimostrate interessate all'idea, seduti come a cavallo, quindi leggermente sbilanciati in avanti. E il concept nasce da un'idea di risparmio di spazio, perché le gambe sono un po' più giù, e interpreta in maniera, diciamo, più possibile forse quello che sembrava una buttada di Ryanair, che qualche tempo fa immaginava di farci viaggiare in piedi. Questo nuovo sedile, non bellissimo da vedere, si chiama Skyrider e ci fa prefigurare, dicono, viaggi aerei fino a 8 ore comodamente o scomodamente, si vedrà in sella. Immancabile, come dicevi, la citazione dalle serie televisive, è americana, naturalmente nuovissima, in onda dal 6 novembre sul canale AMC. È una serie TV ambientata a metà 800, nel periodo della costruzione della ferrovia transcontinentale, 3.000 km, 20.000 operai, che ha unito Est e Ovest. Una serie celebrativa del culto della frontiera, quindi piena di saloon, di bordelli, di praterie, frecce, pistole, vendette e tonalità epica da vecchio selvaggio West, anche se è da rubricare tra i western, diciamo, contemporanei, quelli un po' stemperati dall'ironia o da chiavi surreal grottesche un po' alla Fratelli Coen. Citavi appunto il ritorno del genere western al cinema. Anche in quel caso i grandi temi, vendetta, violenza, ferocia, eroi spietati, vengono comunque reinterpretati e un po' neutralizzati. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Santa Fe, New Mexico, su indiani, cowboy e dintorni? Ce lo racconta come sempre la nostra Urban Watcher, Alessia Zampano di Memetic Club. Ciao Alessia. Ciao, un saluto a tutti. È proprio una passione a lungo coltivata per lo stile e l'estetica del vecchio West ha spinto la parigina Natalie Kent, dopo aver smesso di lavorare come fashion editor per l'edizione francese di Vogue, a trasferirsi appunto nel New Mexico per aprire un negozio interamente dedicato al lifestyle Old America, rivisitato e attualizzato ai nostri giorni. Nel concept store che porta il suo nome trovano spazio vestiti, cinture, cappelli e accessori, tra cui gli immancabili stivali da cowboy rigorosamente artigianali, ma anche oggetti di arredamento e opere d'arte, molti dei quali pezzi unici. L'eclettico assortimento, come del resto la storia della sua artefice, è il frutto di un'attenta ricerca e audaci contaminazioni. Tutti i pezzi che Nathalie accuratamente seleziona e acquista in giro per il mondo, dalla Francia al Marocco, dal Messico all'India, sono autentici e con piccoli e decisivi inserti vengono ricondotti alla sua estetica di riferimento. Come le sedie di Luigi XV, ricoperte in pelle lavorata, le croci di perline cucite sulle coperte del vecchio esercito svizzero, gli scialli di alpaca fatti a mano dalle donne della tribù Navajo dell'Arizona o i fieri ritratti dei nativi americani dell'artista francese Antoine Zapoff, contraddistinti da una scrupolosa ricostruzione storiografica. Ed è indicativo della nostra contemporaneità che spetti a una parigina il compito di custodire la tradizione e riportare l'America alle sue radici. Grazie Alessia. Patrizia, West in quanto frontiera, dunque sinonimo di libertà, di speranza, è questo per così dire il mood che ispira questa tendenza? Sì, c'è anche questo. Dicevamo poco fa che i sentimenti feroci, l'odio eccetera non sono più chiaramente modelli presentabili, dunque il West che incontriamo oggi non è più selvaggio, quello rappresentato dal cinema di genere, ammorbidito, epico, sentimentale, insomma politicamente corretto. Si è spietato, lo è finzionalmente, certo condito di libertà e speranza, questo sì. Essere avere @radio24.it, scriveteci, aspettiamo le vostre idee, i vostri suggerimenti. Questa settimana, ve lo ricordo, avete anche un motivo in più per farlo, i biglietti omaggio per la notte dei Publivori a Milano. A domenica prossima, come sempre, dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.